Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi lunedì 24 novembre 2008, sulle prime pagine, oltre naturalmente al crollo della scuola a Torino, anche le misure del governo. Abbiamo sentito poco fa che questa settimana verranno varate per tentare di contrastare la crisi economica e di rilanciare possibilmente lo sviluppo. Oggi ne parliamo con Alberto Rioli. Buongiorno Alberto. Alberto Rioli, capo della redazione romana, vice direttore del Sole 24 Ore, e oggi sul Sole 24 Ore del lunedì firma un editoriale, La stagione del coraggio. Subito una domanda: il coraggio è quello che c'è o è quello che ci vorrebbe? Alberto Rioli. Ma è quello che ci vorrebbe, poi se ci sarà o meno lo vedremo quando sarà effettuato oggi pomeriggio l'incontro con le parti sociali. E quando vedremo i testi della manovra di politica economica che il governo avrà messo in campo. Ecco, quindi le misure sono ormai pronte, le ha annunciate il ministro Sacconi nei giorni scorsi. Si tratteranno di misure, di interventi cash, verranno dati dei soldi, in pratica soprattutto alle famiglie che si trovano in maggior disagio, le famiglie con dei figli, con redditi più bassi, dei soldi che dovrebbero aiutare a riavviare i consumi. Verranno fatte anche delle misure per le imprese, misure destinate forse a rinviare alcune scadenze fiscali. Ecco, dai primi accenni, Alberto Rioli, potrà essere sufficiente questa manovra? Ma speriamo di sì. Io credo che, appunto, per tornare all'idea del coraggio, senza sembrare eccessivamente impopolare, la grande scelta che deve fare il governo in questa fase, nell'allocazione delle risorse per la politica economica, è quella di rilanciare effettivamente l'economia puntando moltissimo su un grande investimento in infrastrutture e un alleggerimento fiscale per le imprese, soprattutto quelle che riescono ancora anche in questa fase di grandissima difficoltà a investire magari in innovazione tecnologica, in ricerca. I provvedimenti di sostegno alle famiglie a bassissimo reddito vanno benissimo, ma non è proprio certo che possano essere il provvedimento che fa davvero la differenza. Basti pensare alle social card, 80 euro ogni bimestre, vuol dire 40 euro al mese, vuol dire 10 euro a settimana. È probabile che sì, possa essere un alleggerimento, ma è più un segnale di tipo simbolico che non effettivamente una leva per rilanciare l'economia. Ecco, in questa fase, mentre ricordo gli ascoltatori, il numero verde 824 0024 per le vostre telefonate, ecco, in questa fase si parla molto della necessità di ridare fiducia all'economia, di rilanciare un certo ottimismo sulle prospettive future e anche di non esagerare un po' sui toni della crisi che comunque è una crisi in atto, ma è una crisi soprattutto per ora finanziaria che ha messo in difficoltà le banche, le grandi banche d'affari americane innanzitutto, e che sta mettendo in difficoltà ora come ricadute anche parte dell'economia reale, soprattutto le grandi imprese, le grandi industrie automobilistiche americane, ma non solo americane. Allora Alberto Rioli, c'è in fondo l'esigenza anche di ridare fiducia all'economia, di ridare fiducia ai consumatori, di far vedere che non è il momento di ritirarsi nel proprio guscio, perché appunto una tentazione di ritirarsi, di risparmiare forse fin troppo potrebbe provocare essa stessa quella recessione che si vuole evitare. Com'è possibile ridare coraggio, ridare fiducia non solo al governo ma anche ai cittadini? Ecco sì, sicuramente questa strategia della fiducia è fondamentale per consentire al prodotto interno lordo di continuare a crescere e per questa via anche di migliorare poi i parametri che sono necessari per verificare qual è lo stato di salute dell'economia all'interno dell'Europa. La strategia della fiducia è fondamentale e quindi passa attraverso un rilancio dei consumi e non a un aumento dei risparmi, come dicevi giustamente tu, ma soprattutto, torno a dire, secondo me passa dall'idea che l'economia gira, che il motore della politica economica funziona, che ci sono gli investimenti, che ci sono i cantieri, che ci sono i piani di ricerca, che il paese vive, si rilancia e progredisce. Questo secondo me è il principale segnale che va dato a ciascuno di noi, alla cittadinanza. Attraverso questo si mantiene poi l'occupazione, che è l'altro grande problema di questa fase. È chiaro che non hai fiducia se perdi il lavoro, è più che evidente, quindi solo attraverso un grandissimo piano di investimenti di domanda pubblica, diciamo così, che possa consentire all'economia di girare, si può raggiungere l'obiettivo della fiducia. Ecco, qui non è solo questione di soldi, è anche questione di smuovere le cose, perché molti investimenti pubblici sono fatti, deliberati, approvati, e i cantieri sono bloccati perché ci sono norme da superare, licenze da ottenere, consensi da registrare e così via. Quindi il meccanismo italiano è un meccanismo abbastanza rigido, abbastanza vischioso, abbastanza complesso. Forse oltre che pensare solo a immettere soldi nell'economia, ci sarebbe bisogno anche di qualche provvedimento che sbloccasse le cose, magari attraverso un'intesa bipartisan, un'intesa tra maggioranza e opposizione, che superasse appunto i nodi del consenso e permettesse di realizzare anche queste grandi opere su cui c'è molto contrasto. Pensiamo all'alta velocità Torino-Lione, ma anche opere su cui c'è un consenso abbastanza diffuso, che so, la Pedemontana in Lombardia potrebbero partire già domani e invece i cantieri si apriranno forse tra un anno. Alberto Jori, però questa voglia di consenso non c'è nella politica italiana. Ma c'è questa grandissima difficoltà a gestire tutte le varie, come dire, stratificazioni del modello democratico italiano, diciamo così. Mi venivano in mente le parole del sottosegretario Bertolaso quando spiegava che i fondi per la manutenzione degli edifici di edilizia scolastica ci sono, ma devono essere frutto del concerto fra due ministeri, infrastrutture e istruzione, e poi dell'accordo con le regioni, e poi del passaggio formale in stato regioni, e poi ancora del successivo accordo con i comuni. È evidente che tu hai dei soldi che non spenderai mai, perché comunque intervengono esigenze di tipo clientelare locale, nel senso buono e nel senso cattivo, esigenze di obiettive di rispetto a delle strategie, degli obiettivi strategici diversi fra i vari soggetti che interloquiscono. Quindi è chiaro che dal momento della decisione al momento dell'erogazione passa un'infinità di tempo, e magari appunto c'è anche l'incidente, il drammatico incidente come è accaduto nei giorni scorsi. Quindi è chiaro che bisogna modificare una delle grandi scelte, come si dice da un po', per la verità, ma si tenta di farlo, è semplificare la democrazia italiana e arrivare a renderla decidente, come si suol dire. Sentiamo un ascoltatore, Simone da Livorno, buongiorno. Buongiorno a lei, se mi ha dato questo piccolo spazio. Si dica, grazie. Come sempre, per accompagnarti una mattina con informazioni importanti. Io volevo fare questo appunto. Io lavoro nel credito al consumo e mi rendo quotidianamente conto della grande difficoltà che hanno le italiane in questo momento. È una difficoltà reale, una difficoltà concreta. Ecco, la mia osservazione nasceva da questo. C'è una, mi pare, una certa esagerazione nell'informazione in questo momento, una sorta di terrorismo su questa crisi economica, su questa, che sicuramente c'è, sicuramente andremo incontro a delle difficoltà, però secondo me dovrebbe essere affrontata con maggiore calma. Bisognerebbe non spaventare la gente, ma istruirla, insegnarle a come muoversi in questi momenti di difficoltà, insegnarle a fare dei buoni investimenti, insegnarle a fare a verificare i prezzi. Ecco, e in questo, allacciandomi a quello che stavate dicendo voi, credo che gli interventi immediati che dovrebbe fare questo governo, e probabilmente anche, come diceva lei, in collaborazione con l'opposizione, debbano essere degli interventi semplici. La gente vuole delle cose semplici, la gente vuole vedere effettivamente che se scende il petrolio effettivamente scende anche la benzina, quindi degli interventi mirati del tipo mettere mano subito alle accise sul carburante, ad esempio, piuttosto che intervenire direttamente e decisamente sul controllo dei prezzi. Parlo dei prezzi al consumo, abbiamo sentito parlare di contributi per esempio sull'auto, bene, metterli di nuovo in moto, e magari anche non solo sull'auto, anche su altre cose, elettrodomestici o cose di questo genere. Quindi interventi semplici, la ringrazio, questa osservazione, la ringrazio anche del suo richiamo. Beh, compito nostro, il Sole 24 Ore di Radio 24, quello di cercare di capire, aiutare a capire, la situazione è certamente complessa, ma indubbiamente forzare i toni non è mai molto utile, però certamente non bisogna anche nascondere il fatto che ci sia una situazione difficile, una certa gravità della crisi. È una crisi che però ha tutti gli elementi per poter essere risolta. Alberto Rioli. Sì, sicuramente. Un altro degli elementi importanti, per esempio, per ridare fiducia al sistema e trasferire risorse nelle tasche dei lavoratori, è arrivare finalmente alla riforma della contrattazione, all'accordo che oramai si sta aspettando da più di un anno, a dire la verità, e che sembra essere lì lì per essere firmato, sul quale si è creato un incidente con la CGIL che si è sfilata dalla trattativa in sostanza e non ha sottoscritto l'accordo che invece CISL e UIL hanno raggiunto con la Confindustria. Ecco, quello sarebbe un passaggio fondamentale perché migliorerebbe il sistema di allocazione delle risorse attraverso le vie naturali, perché è chiaro che il denaro in busta paga ci deve arrivare attraverso la via del contratto, attraverso la via del premio, non attraverso una scelta del governo che dà un assegno una tantum affinché si possano mantenere certi livelli di consumo. Quello sarebbe un gesto molto importante. Per tornare al coraggio, a questo punto il coraggio dovrebbe averlo il sindacato, soprattutto il sindacato che non ha firmato, di uscire dall'arrocco e arrivare a un ragionevole compromesso che possa ridare energia vitale al sistema dell'economia. Ognuno dovrebbe fare la sua parte in questa fase con grande senso di responsabilità e magari accettando anche di fare un passo indietro rispetto a logiche del passato, proprio perché la situazione è diversa e richiede degli interventi anche eccezionali, ma che vadano poi nella direzione della crescita e che sia una direzione in cui tutti siano convinti che si possa tornare a crescere. Stiamo parlando con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che ha firmato l'articolo di fondo di questa mattina, la nuova stagione del coraggio, dedicato alle misure del governo, che il governo sta prendendo per affrontare la crisi dell'economia. Abbiamo un ascoltatore in linea, Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Guardi, io rischio di essere un po' troppo monotono e melenso, però la mia sensazione è che il presidente Berlusconi parla di non smettere di continuare a fare gli acquisti per evitare che si fermi la macchina. Si parla di coraggio, ma la mia sensazione è che, e le faccio un esempio, da dipendente, 4 milioni di lire nette al mese, ero una persona che si poteva permettere il lusso di fare tante spese con tranquillità e reputo di essere stato uno degli elementi, come tanti concittadini, di aver continuato a lanciare l'economia, eccetera. Oggi come oggi sono a 2000 euro, il mio cambio, che se ne dica, non posso continuare a ragionare in euro, ma devo sempre ragionare in lire italiane. E io con 2000 euro nette al mese, non dico che sono a livello della sopravvivenza, perché sarebbe un insulto nei confronti di chi magari ne guadagna 1200 o 1000 o ancora meno, però ho dovuto drasticamente fermare molte delle mie spese, della mia famiglia. Ora credo che il problema fondamentalmente non sia una questione di coraggio o di non smettere di acquistare, il problema è che non si riesce più ad acquistare. C'è stato uno spostamento della ricchezza verso fasce probabilmente più ridotte in termini percentuali nell'ambito della cittadinanza italiana e questo ha fatto sì che tutto si fermasse. Ecco, la ringrazio di questa testimonianza. Indubbiamente il problema appunto dei consumi è anche legato alla possibilità di consumare, ecco, al di là poi dei casi specifici, indubbiamente l'effetto euro ha avuto un fattore che ha fatto scattare in quel momento il passaggio all'euro i prezzi, però non si può a questo punto parlare di un continuo effetto euro, c'è stato una volta e probabilmente l'abbiamo assorbito, però di fatto è chiaro che i salari, gli stipendi interni sono più bassi di quelli medi degli altri paesi, anche se il costo del lavoro per le aziende è più alto, questo perché esiste il cuneo fiscale, i costi contributivi e gli oneri fiscali che pesano molto più che in altri paesi sui salari italiani. Ma vorrei sentire anche Alberto Rioli. Sì, hai assolutamente ragione Gianfranco, scusate la voce. È proprio così, il fenomeno del cosiddetto cuneo fiscale in Italia è quello che porta la busta paga lorda di un operaio, di un impiegato italiano tra le più alte d'Europa e la busta paga netta tra le più basse d'Europa. Quindi in mezzo a questo cammino c'è un cuneo fiscale, appunto un sovrappeso di oneri fiscali e contributivi sul quale bisogna riflettere e ragionare, sul quale bisogna intervenire. Non a caso una delle misure che il governo ha annunciato in questa fase, forse la più importante, è quella della cosiddetta deducibilità dell'IRAP, che è la tassa regionale che serve a pagare il servizio sanitario, che pesa anche sul fattore costo del lavoro delle imprese, anche quando vanno male, è una cosa molto importante perché contribuirà ad alleggerire il costo del lavoro e a rimettere in circolo risorse che per via indiretta possono anche tornare ai salari, anzi devono tornare anche ai salari. che e se questa manovra la abbiniamo alla cosa che dicevo prima, cioè all'eventuale raggiungimento della riforma della contrattazione che possa liberare maggiormente le risorse legate alla produttività aziendale che possono finire nelle buste paga, ecco che possiamo avere attraverso due grandi fiumi un ottimo rilancio, diciamo così, del potere d'acquisto delle singole famiglie, ben superiore rispetto a quello di erogazioni dirette, che sono invece bonus di pura sussistenza. Grazie mille. Marco da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Si dica. Grazie per lo spazio che mi dedicate per questo intervento. Io mi rifacevo un attimo sia a quello che ha detto prima l'ascoltatore che è intervenuto, sia a quello che ha detto all'inizio della trasmissione, nel senso che a me la crisi, almeno qui dalle mie parti, nel nostro distretto diciamo di Pordenone e dintorni, ha colpito anche le fabbriche piccole, cioè quelle di 50 dipendenti, quelle di 30 dipendenti, per non parlare del mobile che si è completamente fermato e sta mandando un sacco di gente a casa, insomma, ecco. E invece per quello che diceva l'ascoltatore prima, appunto, è vero che il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, quando dall'entrata dell'euro, ma non per l'effetto euro, secondo me proprio dall'entrata dell'euro c'è stato uno spostamento di ricchezze da diciamo, lavoratore dipendente ad altre categorie, perché sono aumentate tantissime cose e è stato questo spostamento di ricchezza, per cui è difficile far ripartire poi l'economia quando mancano i soldi, al lato pratico. Ecco, grazie, anche questa è una testimonianza indubbiamente anche sul fronte territoriale, la testimonianza da Pordenone sul fatto che piccole e medie imprese stiano soffrendo la crisi, alcune chiudano, dimostra come la crisi sia un dato reale, un dato a cui bisogna appunto rispondere anche attraverso interventi che aiutino le imprese ad essere competitive, perché le imprese producono, pensiamo appunto a questo caso di Pordenone dove c'è un distretto del mobile, il distretto della sedia, producono in gran parte per le esportazioni e devono essere competitive per affrontare appunto i mercati internazionali, quindi aiutare le imprese vuol dire aiutare le imprese a creare posti di lavoro, a creare reddito, a mettere appunto in circolo anche l'economia interna. Arturo da Catania, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io mi riallaccio perfettamente agli interventi che sono stati fatti fino adesso, perché io credevo una cosa, perché si parla sempre solo di riavviare i consumi, aiutare le banche, rilanciare l'economia, quando non si parla più di quello che parlano ormai tutti i grandi economisti, cioè redistribuzione della ricchezza, che da anni si parla, e il nuovo capitalismo, di rifondare di questo. Questo lo vediamo da tantissime cose, io credo. Una cosa fondamentale, per esempio l'ultima, il famoso, è un'altra cosa, cosa vuol dire la legge del mercato per giustificare gli stipendi enormi che si danno, lo vediamo benissimo tra i calciatori, tra tutto, quando poi ci sono le aziende oppure i diplomati che falliscono per questo motivo. E un'altra cosa che volevo chiedere, per esempio, un esempio fondamentale, l'ultima per esempio, inchiesta che ho letto su Repubblica, sul problema anche dello spreco enorme di stipendi che ci sono, tra l'altro, nella RAI, per esempio, che l'ultima volta, non so, si parlava di questa tendenza che i semplici, come si chiamano, opinionisti, preso uno a caso, così si parlava di stipendi che prendono, facendo quattro interventi in un mese, guadagniamolo 16.000 euro all'ora. Ecco, io la fermo qui, mi scuso, adesso non vogliamo entrare nei particolari dei singoli interventi. Indubbiamente posso dirle, c'è alcuni stipendi troppo elevati, soprattutto a livello di finanziario, dove la creazione di valore si è vista negli ultimi tempi era addirittura negativa, sono sicuramente scandalosi. Poi il mercato deve fare la sua parte, se un calciatore comprato da una società fa guadagnare a questa società milioni perché attira centinaia e migliaia di spettatori, ecco, questo calciatore dà un valore aggiunto alla società e tutta la responsabilità dell'acquisto spetta alla società. Io non ci metto un soldo in questo e non mi sento responsabile di questo, e qui è il mercato che fa la sua parte. Ma il problema che lei diceva al fondo è di redistribuire la ricchezza. Su questo sono perfettamente d'accordo, la ricchezza va redistribuita, ma lo Stato deve sprecare meno. Lo Stato toglie già molto a livello di prelievo fiscale, dovrebbe spendere meglio, spendere per ridistribuire questi soldi, redistribuire ai cittadini, aiutare le fasce più deboli attraverso servizi efficienti. Alberto Violi. Sì, hai ragione Gianfranco. Poi c'è un altro punto che vorrei sottolineare, che emerge dalle telefonate che ci fanno gli ascoltatori. cioè quello dell'occupazione. La crisi morde le aziende, anche quelle più dinamiche, anche i distretti, si trovano con dei mercati strozzati, quello americano, quello tedesco, che sono mercati di sbocco tradizionali delle produzioni italiane, e quindi sono in grande difficoltà e hanno quindi un contraccolpo sull'occupazione, probabilmente sull'occupazione più flessibile, più cosiddetta precaria, insomma sui lavoratori cosiddetti atipici che fanno da polmone occupazionale delle imprese. Quindi è chiaro che questo deve diventare in questo momento una delle priorità del governo, perché è chiaro che non puoi trovarti nel giro di pochi mesi un'ecatombe di contratti a termine da non, certo, e non saperli gestire, può diventare una bomba sociale. È un tema grande, che è diventato importante, che è diventato in primo piano in questi giorni, quindi aiutare appunto la competitività delle imprese sotto questo profilo, perché le imprese possano appunto creare posti di lavoro. Dobbiamo fermarci qui, grazie a Roberto Rioli che ci ha tenuto compagnia dietro la notizia, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, grazie agli ascoltatori, l'appuntamento è per domani.